Tempo di Sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia. Abbiamo una puntata specialissima di A Tempo di Sport del sabato, una prima parte in cui parleremo molto approfonditamente di calcio, quello che abbiamo visto e quello che verrà nel weekend con un ospite importante, un amico. Nella seconda parte invece andremo a parlare di cose liguri, perché in settimana, la prossima settimana, c'è un evento importantissimo nella Liguria ferita, che non è stato cancellato e che anzi tutti stanno cercando di fare in maniera assoluta, cioè il mondiale di surf a Levanto. Però il calcio, Massimo Callegari da Mediaset è qui con me, mio amico. Ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Perché noi le promesse le manteniamo. Certo, giusto? Fate in pubblico poi, figurati. Ci mancherebbe. 800 24 00 24 per venire a parlare con noi. Massimo Callegari, che è andato a reduce dalla telecronaca del match di Champions League del Milan a Minsk, questo 1-1 che è stata per il Milan, Massimo, ne parlavamo anche prima, una buccia di banana, perché poteva arrivare alla partita col Barcellona con il gioco in mano, mentre il gioco ce l'ha in mano l'amico di Ibra, Guardiola. Esatto, sì, perché alla fine sono due punti buttati. Se mi avessero detto all'intervallo il Bate Borisov pareggerà questa partita o il Milan non riuscirà a vincerla, mi sarei esposto con scommesse anche pesanti. Sì, invece è andata così. Sarebbe stato diverso se il Milan avesse potuto giocare con lo 0-0 e l'1-1 a disposizione contro il Barça, e sarebbe diverso arrivare primi o secondi nel girone, perché tra le seconde forse il Manchester ancora rischia di arrivarci nel duello col Benfica, ma le altre sono molto più accessibili delle prime. Sicuro. Per gli ottavi. Senti, secondo te, così a sensazione, sono cose che non si possono sapere, solo intuire, quanto ha inciso la questione Cassano sulla partita del Milan? Pochissimo. Poco. Sì, ed è stato un merito nel corso del primo tempo soprattutto da parte della squadra, perché avrebbe potuto incidere, sì. Sarebbe stato comprensibile umano, però erano stati molto anche emotivamente bravi. Secondo te, sì, non ha influito. Sì. Anzi, avevano la volontà, e lo hanno dimostrato con l'esultanza, con la maglia di Boateng dedicata a Cassano, di vincere anche per lui. Quindi questa nuova frontiera invece dell'Europa allargata voluta da Platini, visto che ho una testimonianza diretta con te. Sì. Prima hai trovato a Minsk, intorno a questo Bate Borisov, stiamo andando alla scoperta in queste stagioni. Io non sono molto d'accordo, a me non piace tanto. Lo so, cioè sì. Preferisco un torneo elitario, non lo so, forse sono alla De Laurentiis. Sono eccessivamente snob in questo, però mi piaceva la Champions League delle due fasi a gironi, insomma tante partite tra squadre di massimo livello, di livello assoluto, una sorta di campionato europeo vero. Però tant'è, così stiamo scoprendo, e in fondo possono esserci dei motivi di curiosità delle squadre di nuova frontiera. No, devo dire, le due cose fondamentali sono che la differenza tecnica e il divario sono enormi, però è anche vero che certe partite che sembrano, come quella di martedì, molto accessibili per le grandi, poi in realtà nel risultato non lo sono, anche se questo non condiziona la qualificazione del Milan, lo può condizionare per il piazzamento, come abbiamo detto. La cosa che mi ha colpito di più era che durante il primo tempo il Milan stava dominando, i tifosi a Minsk, che peraltro non era città del Bate, no? Certo. Perché Borisov era 100 km più in là, festeggiavano la Ola, cioè per loro vedere Milan e Barcellona nel giro di un mese, certo, è un evento impensabile e straordinario. Credo che potrebbe essere un compromesso, però bisogna vedere poi se le televisioni e l'UEFA sono d'accordo, arrivare a una situazione che mantenga questi piccoli paesi in Champions, però limiti il numero di partite e quindi tornare all'eliminazione diretta, magari con un turno in più, perché andate e ritorno, insomma loro il Milan se lo vedono lo stesso una volta nella vita a Minsk, però non ci sono partite da settembre a dicembre di cui il 50% o quasi sono poco utili ai fini della quindi Champions. Quindi torniamo indietro secondo te? Si potrebbe, no? Potrebbe essere una soluzione, perché l'eliminazione diretta un minimo di adrenalina la dà in più. Sì, dà un minimo di adrenalina, però scema il discorso del torneo europeo vero e proprio, con partite andate e ritorno, una formula che tutto sommato premia le squadre più forti, no? Così sì. È chiaro che puoi creare dei dubbi alle squadre più forti, non lo so, è secondo me una discussione filosofica, ma neanche sì, poi molto troppo, filosofica. Insomma, è molto difficile tornare indietro. 349-238-6666 per i vostri messaggi, poi Facebook e Twitter naturalmente per restare sempre con noi, 800-24-0024 numero verde. Sto vedendo Mazzari, oggi Mazzari è stato molto divertente, conferenza stampa alla Mourinho, poi vi facciamo sentire, abbiamo un sacco di voci da farvi sentire, a cominciare direi da torniamo a Cassano, che è stato l'argomento che ci ha più toccato in settimana, perché lascia sul tappeto un sacco di cose, no? Primo, tornerà a giocare o non tornerà a giocare? Secondo, il Milan prenderà qualcuno o non prenderà qualcuno? Se sì, chi? Oggi Allegri ha detto: scriveremo la letterina a Babbo Natale. Gli è stato fatto il nome di Del Piero ed è una suggestione che rimbalza qua e là, perché c'è Cassano, ma c'è anche Del Piero che dice: continua a giocare anche se mi licenziano. E allora dove va? Chi lo sa? C'è la coppia offensiva della nazionale, che non c'è più perché Cassano e Rossi si sono fatti male, e allora bisogna trovare soluzioni alternative. Giocherà ancora o non giocherà più Antonio Cassano? 4-6 mesi sono i tempi da prognosi. Io ho i miei dubbi e me li tengo. Anch'io, però sulla base di quello che ci hanno detto e di quello che bisogna aspettare. Certo, 6 mesi senza attività agonistica, solo di recupero, sono un bel periodo, quindi anche in vista dell'europeo i dubbi sono, certo, sono tantissimi. Poi sul suo futuro assoluto bisogna solo aspettare. Quante credo che motivazioni. Per fortuna noi in Italia, per fortuna abbiamo anche un sistema di controllo in questo senso, e il caso di Cano era stato esemplare, molto rigido, quindi ci saranno delle attenzioni totali sul fatto poi di capire, certo, se potrà ritornare anche, o meno. Ma vedi, anche ammesso che possa clinicamente tornare, come è stato detto da tutti in questi giorni, quali motivazioni ha? Non dimentichiamo che poco tempo fa, che poche settimane fa, ha detto: gioca ancora un paio d'anni, poi basta, mi dedico ad altro. Beh, quali però io credo che invece nella mentalità di un personaggio così fuori da ogni logica, da ogni schema come Cassano, questa sia una motivazione totale, sì. Secondo me sì, perché lui ha la volontà adesso proprio di dimostrare anche ancora di più a quelli che sostenevano, no? E hanno sostenuto che lui non era in grado di reggere certi livelli o di mantenere una certa continuità, ha la volontà e la motivazione di dimostrare che non solo il talento ma anche la voglia ci sono, la determinazione. Poi insomma alle spalle ha una società che cercherà di fare di tutto per farlo recuperare, farlo, certo, tornare ai migliori livelli che secondo me sono stati toccati in questo inizio di stagione. Guarda, l'ha detto anche Allegri oggi, ve lo facciamo sentire subito. Innanzitutto è importante che sia andato tutto bene, la fiducia che Antonio ritorni tra 4-6 mesi è altissima, soprattutto per quello che hanno detto i dottori. Ci ho parlato dopo l'operazione molto sereno e molto tranquillo, anche perché l'operazione in se stesso era bischerata, sì, il problema era lì al cuore, però non è stata invasiva, anche perché dopo poche ore Antonio era già sereno e tranquillo, rideva e scherzava, e questa è la cosa più importante. E speriamo di averlo più presto possibile, anche perché stava facendo, sono convinto, la migliore annata della stagione, della sua carriera. Così, dunque, d'accordo con te, Massimiliano Allegri. Sì, secondo me sì, considerando il valore della squadra in cui gioca, esatto, il valore delle sue prestazioni, la continuità, gli avversari che ha incontrato, sì. Vero. Questo spicchio di stagione è stato comunque il migliore, anche perché non dimentichiamo, c'è stato un periodo in cui l'attacco del Milan era Cassano, punto, sì, ed è stato molto bravo nel gestire quello. Anche in nazionale. Anche in nazionale, certo, non scherziamo, Matri Insigne, nuova coppia d'attacco della nazionale. Matri? Insigne. Addirittura. Dai, sarà il cugino di Insigne. Bravo giocatore, però andare agli europei così a me vengono i brividi. Matri Balotelli, parliamo. Pazzini Balotelli. Sì, Pazzini Balotelli con Matri come ottima alternativa. Ti dico, ne parlavamo prima con Giorgio, sì, De Luca, prima di iniziare il programma. Allo stadio sabato ho seguito la Inter-Juventus e poi sono sensazioni e percezioni che si hanno solo dallo stadio, però mentre Pazzino l'anno scorso mi sembra abbia svoltato in maniera definitiva con quei gol meravigliosi a Werder Bremen nel preliminare con la Samp, Matri ha delle grandissime qualità anche di goleador, però ancora gli manca in alcuni momenti quella freddezza, quella sicurezza totale che ti deriva proprio da essere, dalla consapevolezza di essere ormai maturo, no? Mentre Pazzini, sì, è un giocatore che dà ormai, almeno a me, quell'impressione lì. A Matri manca ancora quel salto di qualità. Anche a livello internazionale. A livello soprattutto internazionale, soprattutto. Sì. Pazzini, Balotelli la approvo. Poi Balotelli comunque qualcun altro. Balotelli che rimane, io credo, il titolare in pectore a questo punto. Piace molto a Prandelli. Poi è vero, l'altro giorno i tabloid hanno fotografato sigarette in una mano e porno star nell'altra, ma questo... ma chi se ne frega, voglio dire, sarà la sua vita. Sul campo, io perché guardo il campo, non i tabloid, sta giocando anche lui... Le cose da paura. Stava giocando le cose da paura, hai ragione. C'è chi mi dà del buffone di SMS aggiungendo che le chiacchiere su Cassano sono uno sciacallaggio senza senso. Non vedrai perché. Non ne capisco il motivo. Se Giuseppe chiama, facciamo due chiacchiere insieme e ne parliamo eventualmente. Non capisco perché possono essere uno sciacallaggio queste chiacchiere. Si tratta di un problema grave che ha avuto un giocatore e è stato operato. Tutto è andato bene, come sappiamo, per grandissima fortuna e per grandissima bravura anche di chi l'ha curato e se n'è accorto. Certo, per uno sportivo professionista sono problemi veri con cui si dovrà fare i conti. Non capisco la prospettiva dello sciacallaggio. Guido, provincia di Latina, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, io volevo rilanciare un attimo il discorso della Champions, no? Nel senso di poter programmare una sorta di Serie A europea, quindi portare tutte le squadre più forti e fare proprio la famosa Superlega. La famosa Superlega, oppure European League, ma molto praticamente tutte le squadre che vengono alla Serie A di tutte le nazioni parteciperebbero a questo grande maxi torneo con andata e ritorno e partecipano solo a quello, capito? Sì, ho capito perfettamente. Questa è una prospettiva che piace ad alcuni, non piace ai romantici che invece vorrebbero la Coppa dei Campioni vecchio stile. No, credo che soprattutto non piace alla UEFA, fondamentalmente, che UEFA è quella che poi decide. Perché è anche vero però, Massimo, insomma, che onestamente tu guarda tutti i campionati europei di primo livello, ci sono corazzati in stagni spesso, sì, no? Perché non dirmi che si divertono Real Madrid e Barcellona nel campionato spagnolo a suon di 5-0, 8-0 e 4-1. È vero, ogni tanto arriva la piccola donchisciottesca che fa il colpo, però sono episodi sporadici. C'è una grande distanza tra le squadre che realisticamente sono da Champions League, da vittoria finale, e tutte le altre dei loro campionati. No, è vero, però mi sembra una prospettiva ancora più lontana rispetto a quella così, che è totalmente ipotetica, di cui abbiamo parlato prima, nel senso che se solo pensiamo che nel campionato europeo per nazioni si andrà dal 2016 addirittura a 24 squadre alla fase finale, il che vuol dire che le qualificazioni, che già adesso sono molto molto semplici per le grandi, diventeranno una passeggiata assoluta, è molto difficile pensare che si vada nella direzione opposta e quindi che si limiti, no, il bacino alle grandi nazioni calcistiche e si faccia una Superlega. Io non ho questo dibattito via SMS con Giuseppe che non mi piace molto, lo dico ancora questa, poi la pianto lì perché non ha senso che uno scrive e l'altro parla. Fate chiacchiere da Bar Sports, un problema serio come quello di Cassano. Non mi sembrano chiacchiere da Bar Sports, mi sembra una questione di cronaca. Sì, con grande rispetto peraltro. Ma ci mancherebbe altro, ma è una notizia che è stata... che tra l'altro abbiamo dato domenica nel corso del programma ed è una notizia di cronaca su cui mi pare stiano parlando un po' tutti, non mi sembra una chiacchiera da Bar Sport. Comunque, tant'è, non voglio scendere in queste polemiche totalmente inutili. Voglio farti sentire invece, caro Massimo, vorrei affrontare la questione del Piero, che mi intriga. Anche Mazzarri voglio sentire, io non l'ho ancora sentito. Vuoi sentirlo subito? No, questo è il... andiamo a schema libero. Decidi Mazzarri. Tu, però. Vuoi sentire Mazzarri? Ti faccio sentire Mazzarri. Allora, il punto del contendere. Mazzarri che va a Monaco di Baviera e fa giocare Cavani alla Eto'o due anni fa con Mourinho, no? Con quel ruolo defilato da combattimento. La stampa, in particolare napoletana, non gradisce e oggi Mazzarri è arrivato con il sangue agli occhi. ti faccio sentire, da prima che cosa ha detto, secondo me ha ragione, cioè, perché mi sembrano critiche ingenerose, vai a Monaco di Baviera a giocare sul campo di quella che è, secondo me, forse adesso la squadra più forte d'Europa insieme al Real Madrid, cosa vuoi fare? Vuoi andare lì a giocare a chi è più bello? Che ti tritano? Poi è vero che il Napoli è andato sotto di 3-0 e poi però ha perso, è riuscito a ricostruirsi la partita perdendola tra virgolette nel modo migliore. Vabbè, morale, Mazzarri imbufalito, il primo frammento su Cavani e sull'impiego di Cavani. Perché allora il paradosso dei paradossi è che Cavani in carriera, allora l'anno scorso quando è venuto Cavani e io l'ho messo centravanti, tutti di voi, la scetticismo, non ha fatto un centravanti. L'ho inventato io centravanti. Ora si viene a dirmi a me che Cavani lo faccio giocare fuori posizione perché lo sposto in una partita a dargli un compito diverso contro il Bayern. Questo non è una critica oggettiva. In buona fede. Dunque Mazzarri, questa non è una critica oggettiva in buona che, fede. Più che murignizzato, come mi avete detto, mi sembra che sia grillizzato, no? Beppe Grillo, no? Che quando parla. Però questo è il prequel, segue sta per arrivare, no? Perché questa è la prima parte del discorso. Poi io ho un secondo frammento audio che Giorgio De Luca ha battezzato Mazzarri incazzato. Te lo faccio sentire. Certo, in questo caso qui sì. In questo chi lo fa è malato. In questi De Maggio, ascoltami, chi lo fa è dimostrato scientificamente, ora proprio logicamente, questa se fosse un processo è una cosa inconfutabile, che chi fa finta di non capire, dopo come ora per esempio dopo può darsi che qualcuno continui a far finta di non capire. Ok? Se fa finta di non capire dopo o questo dibattito vuol dire che è malafede. Vuol dire che vuol destabilizzare, vuol dire che vuol colpire. Finito, punto. Poi chi sia o chi non sia, decidetelo voi. Io ti dico che è così, perché soprattutto dopo, e mi fa piacere, a me il confronto mi piace, ma un confronto come hai fatto ora, me lo dici in faccia, è leale, finisce qui, se sei convinto. Se no me lo dici qui, se no mi dimostri che quello che dico io non è vero, è vero quello che dici te. Finito, ora credo sia stato chiaro. Poi questa conferenza stampa di Mazzarri, poi parla Allegri, no? In ordine temporale a molti chilometri di distanza, Max Allegri, eccetera, eccetera. Noto amico del cuore, noto compagno di banco di merende di, a Livorno. Di Mazzarri, prima dell'inizio della conferenza stampa c'è questo fuori onda, sentiamo se si sente. Mazzarri ha mandato questo. Mi sono ammazzato con Mazzarri. Si capisce benissimo, però dice, l'ho visto, mi sono ammazzato dalle risate. Sembrava Grillo vero. Poi la seconda parte? No, la seconda parte, io il dubbio che ho, mentre sono e rimango molto convinto che Mourinho ogni volta metta su quella che lui chiama media face, no? Lui tante volte in conferenza stampa parla prima di andare davanti alle telecamere e si chiacchiera in maniera molto più naturale, poi dice adesso vado media face, cioè la faccia da mass media, no? E sono persuaso che anche Conte abbia questa strategia, cioè vedo Conte molto più razionale e strategico che irrazionale e istintivo, in campo istintivo, ma quando parla molto strategico. Mi rimane il dubbio che Mazzarri invece sia proprio sanguigno, come dici tu, sangue agli occhi, cioè che questi confronti che lui ha, peraltro con un collega che è un nostro collega di Mediaset Premium, che è Walter De Maggio, che tutto può essere fuorché in malafede quando parla del Napoli, e questi confronti sono veramente naturali, no? Spontanei, e però a volte tradiscono anche una tensione che è pericolosa, perché domani Napoli è una partita delicata e arriva da una settimana in cui ha cambiato, ha messo pedine dappertutto, spostato scacchiera, ha cambiato modulo all'improvviso, peraltro questo a Monaco, questo è un errore, e ha fatto 0 punti in 2 partite, e domani gioca contro la Juve, che credo possa giocare tranquillamente anche per il pari e accontentarsi a gara in corso del pari. Ma se perde va meno 8. Certo, no, ma domani è la partita chiave, perché il Napoli a questo punto ha una partita secca con il Manchester City in casa e deve vincere quella per proseguire in Champions League. Rischia di trovarsi ai primi di dicembre molto staccato in campionato e fuori dalla Champions League e relegato all'Europa League. Quindi è un momento chiave questo per la stagione del Napoli, davvero. Poi ti chiedo cosa ne pensi della partita in senso stretto che il Napoli ha giocato a Monaco. Emanuele da Milano, buonasera. Buonasera, volevo parlare più che altro proprio due argomenti, però più di Cassano, no? Sì. Questa settimana, come lei ha detto, si è parlato dovunque di questo malore che ha avuto, vabbè, di questa. Io forse sarò un po' cinico, non lo so, però tutto questo dispiacere, tolto il Cassano uomo, che cioè è logico, come persona dispiace, però tutto questo dispiacere per un giocatore che alla fine a 30 anni non ha lasciato, secondo me, il segno. Cioè, se la natura ti dà un dono, tu non lo sai utilizzare più volte, ci sta che poi te lo possa togliere. Insomma, questi mi sembrano discorsi un po' fatalistici, cioè non può non dispiacere sinceramente per quello che è successo a un giocatore, un professionista, poi è curabile, è stato operato, è sano, sta bene, tornerà a casa a mangiare la sai della mamma domani o dopo, però il discorso è certamente dovesse finire qui la carriera di Cassano, un rimpianto rimane in tutti quanti, no? Perché la massima espressione del suo talento fino adesso non l'abbiamo vista, almeno con continuità. Con continuità soprattutto, sì. Poi comunque cosa c'entra, anche se così non è stato finora, non è che si può dire ignoriamo il problema, perché tanto ha avuto un talento in mano fino a 30 anni, poi dopo, visto che non l'ha sfruttato, ormai fa lo stesso. Cioè, no, speriamo tutti quanti che torni a giocare, però io credo che dipenderà molto dalle motivazioni appunto che si porterà dietro nei prossimi mesi, che saranno quelli determinanti per capire se fino a che punto può riprendere. Torniamo un attimo al Napoli, che domani gioca questa partita appunto cruciale contro la Juventus. Beh, la Juventus da parte sua ha la possibilità di dare un'impronta decisiva, non in termini numerici, perché siamo a novembre, sarebbe sciocco dirlo, però un'impronta decisiva sul campionato. Immaginati se vincesse al San Paolo, è chiaro che staccherebbe tutti, darebbe una grande prova di forza a tutti quanti. Sì. Il Napoli fino adesso si è mangiato il Milan e l'Inter. Il Napoli è una partita da vincere che arriva dopo questa sconfitta a Monaco di Baviera. Tu come l'hai visto il Napoli di Monaco? Credo che il Bayern, come il Real, come il Barcellona in questo momento, quasi non sia un parametro, nel senso che è un avversario talmente forte, talmente organizzato, talmente sicuro delle sue qualità, con i suoi uomini migliori al top della forma. Adesso poi si è fatto male Schweinsteiger e vedremo, che in questo senso anche dico la gestione complessiva della settimana, tutto sommato è giusto andare a Monaco a giocare al massimo delle proprie possibilità, però delle tre partite tra Catania, Monaco e domani con la Juve, quella di Monaco di Baviera era quella che avrebbe avuto e avrà l'incidenza minore sul futuro, perché anche con un pareggio il Napoli avrebbe dovuto poi vincere contro il Manchester City, no? Quindi credo che sicuramente De Laurentiis tiene moltissimo alla Champions, sicuramente questo incide anche nel modo in cui l'ambiente vive la Champions e forse anche nel modo in cui Mazzarri affronta le settimane pre e post impegni di Champions, però la gara decisiva è quella di domani e alla fine, ripeto, il Napoli ha cambiato tanto tra Catania e Monaco, arriva senza certezze sul turnover perché i cambi non hanno portato a grandi risultati, perché anche la difesa 4 non è stato un esperimento positivo, e quindi insomma siamo qui a discutere di cose, di scelte fatte, di esperimenti senza niente in mano e con una pressione che aumenta sulla squadra. Sicuro. Massimo, io prima di salutarti, sì, ringraziandoti tanto di un appuntamento al più presto possibile su questi schermi, ti chiedo un ultimo pensiero sull'Euro Inter che con Ranieri ha sempre vinto in Europa. È partita male in questo girone, poi ha vinto a Mosca, ha vinto le due partite con Lille, è a 9 punti, è in testa alla classifica di questo gruppo tutto sommato non semplicissimo. Ha due facce, l'Inter ne ha una sola? No, credo che ne abbia una sola, che dipenda un po' dai momenti e dal modo in cui si sviluppano le partite, nel senso che a Mosca aveva iniziato e andata in vantaggio, poi ha avuto la capacità e anche la buona sorte di segnare subito il 3-2 dopo aver subito il 2-2. Con il Lille all'andata è stata una partita insomma giocata in maniera molto, molto di nervi, e al ritorno con qualche segnale, però se fosse andata a riposo sul 2-2 sabato contro la Juventus o sull'1-1 probabilmente in campionato allo stesso modo avremmo parlato di una squadra un po' in ripresa, no? Però la sensazione è che la squadra sia quella, e che proprio perché le mancano delle basi un po' fisiche, un po' atletiche, un po' anagrafiche e un po' anche tattiche, perché anche Ranieri qualcosina deve ancora aggiustare, dipende da come va la partita, da come si sviluppa. Cioè la fiducia non ce l'ha ancora, certo, a prescindere, no? Certo. Ce l'ha a seconda di come va la partita. In campionato spesso si è messa male. Massimo, ti ringrazio, torna presto. Certo. Io ti aspetto, sono qua tutti i sabati, dalle 5 alle 6 io sono qui, se vieni a farmi compagnia io mi diverto molto. Molto volentieri. Grazie a Massimo Callegari. Dunque, come sapete c'è un evento sportivo cui io tengo moltissimo, ormai da tempo ve ne ho parlato tanto, ho provato anche a regalarvi qualche lezione di questo sport meraviglioso. Ebbene, c'è questo evento cui io tengo moltissimo ed è ormai alle porte, perché dal 10 al 20 di novembre i 32 migliori surfisti del mondo, surf longboard, quello lungo, quello di un mercoledì da Leoni, se avete voglia e tempo oggi su Sport Weekly, inserto della Gazzetta dello Sport, non è per fare pubblicità ma perché è fatto molto bene, cioè, ci sono tante pagine dedicate a questo evento straordinario. Ebbene, questo evento arriva nelle nostre acque, è un evento storico perché mai era successo in Italia, è un evento meraviglioso, in questi giorni è ancora più importante per me ma credo per tutti, perché abbiamo la Liguria ferita, abbiamo immagini terrificanti che ci arrivano ed è cronaca anche di oggi da Genova, è cronaca della settimana scorsa, quella del Levante Ligure. Ebbene, a Levanto arriveranno i 32 migliori surfisti del mondo per sfidarsi in prova unica per l'assegnazione del titolo mondiale. Dato che io, insomma, sarà anche interesse privato, ci tengo moltissimo, allora oggi ho voluto qui due ospiti che mi tranquillizzassero essenzialmente. Sono quelli che organizzano l'evento sul fronte italiano, perché è un evento della ASP, quindi l'UEFA, la FIFA del mondo del surf, quindi l'associazione dei surfisti professionisti mondiale. E allora qui Riccardo Belli, che è presidente della Reset, organizzatrice sul fronte italiano dell'evento, che saluto, che è nostro amico. Buonasera, ciao Carlo. E poi ho Federico De Lunas, che è il direttore generale di BEAR, che insomma è il motore di questo avvenimento. Ciao Federico, grazie. Ciao Carlo, grazie a te. Allora, tanto per cominciare, e vorrei anche gli ascoltatori, 800240024, numero verde che resta valido, messaggi 349-238-6666, più Facebook e Twitter, perché su Facebook subito dopo la fine del programma pubblicheremo delle cose importanti. Ebbene, voglio che voi mi diciate che il sole sta per tornare in Liguria, tanto per cominciare, anche se non siete il colonnello Bernacca. Ricky? Guarda, noi abbiamo avuto chiarificazioni in merito da parte del comune di Levanto in primis, e poi della regione, della provincia di La Spezia, perché la tua domanda è assolutamente pertinente. Il momento in cui la Liguria è ferita gravemente, ci siamo domandati qualche giorno fa se era più giusto cancellare questo evento per essere comunque rispettosi nei confronti delle disgrazie che stanno accadendo. Insieme al sindaco di Levanto abbiamo deciso, e anche, ripeto, a tutti gli enti pubblici, invece di fare in modo che questo evento fosse manifestasse la voglia e la volontà da parte della Liguria tutta, attraverso Levanto, di crescere e di essere propositiva in una situazione così grave come stiamo vivendo tutt'oggi. Oggi vi dico, è cronaca di qualche ora fa, noi abbiamo la prima delegazione di ASP che sta scendendo verso Levanto, si è fermata e è dovuta tornare indietro. Dormiranno a Milano, ripartiranno domani. Questa difficoltà non fa altro che metterci nelle condizioni di volere ancora di più che questo evento, in sicurezza, perché tutto in sicurezza, perché Levanto fortunatamente è uno dei paesi che meno è stato colpito, avere insieme, aiutare anche i comuni limitrofi, e ripeto, vuole essere un messaggio positivo. L'evento doveva essere anche più festoso, sarà molto più sobrio, e saranno dei momenti di riflessione. Io ne approfitto anche per dire che il sabato 12 novembre, poi ci sarà anche il programma pubblicato su Facebook, come dicevi tu, ci sarà a Luna una cerimonia molto molto carina, molto interessante. L'hanno voluta tutti i surfisti, dopo aver visto queste immagini così terrificanti. Si chiama Paddle Out, è una sorta di cerimonia dove tutti i surfisti si mettono in mare, in cerchio, si prendono per mano, e questo è il loro modo di ricordare le persone che non ci sono più. L'hanno voluto fortemente, ci saranno un minuto di silenzio che vi assicuro sarà veramente toccante. Questo perché la volontà non è quella di dare voce alla Liguria perché è successa un'alluvione. Dare voce alla Liguria, è successa un'alluvione sì, ma far vedere che il popolo ligure è un popolo che vuole rinascere, vuole andare avanti. Questo, secondo noi, è il monito che dobbiamo dare a tutti, e chiediamo a tutti di starci vicini e di venirci a trovare durante questi 10 giorni. Assolutamente, dal 10 al 20. Federico De Lunas, voi date il nome, Beer Pro 2011 si chiama. Io ti chiedo innanzitutto qual è la preoccupazione che avete avuto, e anche qual è il pensiero che, insomma, che cosa volete fare per questi giorni così importanti e così, così difficili. Certo, ma diciamo che ovviamente da una parte, come azienda, questo tipo di evento è assolutamente importante, quindi da una parte c'è la volontà che questo evento venga al meglio, ma ovviamente non possiamo essere insensibili rispetto a quello che è successo. Siete la faccia italiana del surf, più o meno, no? Sì, italiana, che se poi è un marchio californiano, quindi sicuro. Da sempre la nostra storia si sposa partendo dalla California e si declina sul mondo longboard mondiale, no, più che italiano, però certamente l'azienda oggi è italiana, quindi per noi ha un doppio significato, sì. Quindi una visibilità assolutamente a 360 gradi nel mondo, ma anche un modo per essere in Italia in un evento davvero storico per l'Italia. Quindi siamo rimasti sempre in contatto con l'organizzazione sin dall'inizio, e ovviamente anche noi abbiamo espresso preoccupazione per quello che è successo e ci siamo chiesti quale fosse il significato di partecipare e di fare comunque questo tipo di evento in un momento così drammatico. Quindi crediamo insieme, tutti insieme, che sia un momento per poter rinascere, per poter ripartire, e quindi credo che questo sia magari una piccola goccia nel mare, però certamente un qualcosa che può rendere orgogliosa la Liguria e tutti i suoi abitanti. Sì, mi sembra che insomma le difficoltà abbiano aumentato le motivazioni, no? Sì. Per volerci essere, voler essere presenti, voler essere sicuramente volerlo difficoltà... fare a tutti i costi, ma non per ragioni, voglio dire, materiali. È un segno che io credo che gli abitanti della Liguria ci tengano ovviamente più di tutti gli altri, certo, più certo. Di te, di Riccardo, di tutti. Sicuramente è un segno importante questo, e più di tutti ci terrà Maurizio Moggia, sindaco di Levanto. Signor sindaco, buonasera. Buonasera a voi. Com'è il tempo? Beh, il tempo non è niente buono in questo momento, ma resistiamo, siamo sempre positivi su qualsiasi cosa. Cosa vuol dire per voi il mondiale di surf nelle vostre acque in un momento così difficile? Beh, intanto il mondiale di surf in Italia, in Liguria e a Levanto era un sogno che abbiamo, un gruppo di persone, amministratori, associazioni, sportivi e quant'altro, hanno coltivato per un anno e sono riusciti a portarlo. Nel frattempo è successo quello che è successo, però noi liguri siamo abituati a resistere, abbiamo la volontà, la forza di resistere. Fino ai tempi degli antichi romani abbiamo avuto la sfrontatezza di resistere all'esercito romano, si figuri se ci abbattiamo per tutte queste disgrazie. Certo, lo sport può aiutare molto, soprattutto mandare un messaggio che c'è voglia di ripartire, che c'è tutta la volontà insieme a questa grande manifestazione di dimostrare il carattere nostro, la voglia di ripartire, e nello stesso tempo siamo vicini a tutte quelle famiglie che hanno avuto vittime in casa, naturalmente. Certo. Però io credo che il messaggio che uscirà fuori sarà un messaggio che aiuterà tutti a uscire da questo, diciamo. Sì. Ma io sono d'accordo, non si tratta di fare festa in giorni difficili, si tratta di non arrendersi in giorni difficili. Credo che sia questo il senso, Riccardo. Sì, buonasera sindaco, sono Riccardo. Io vorrei dire, perché il sindaco è molto più facile parlare da qui. Io sono stato più volte, soprattutto dopo quello che è successo a Levanto, e voglio raccontare quello che ho visto. Io ho visto un sindaco, tutte persone, la piazza è diventata una piazza di reclutamento per i volontari. C'è un'unione in questo paese e in tutti i paesi limitrofi che veramente colpisce. E il sindaco, io l'ho incontrato, era sporco di fango, stava aiutando, aveva la palla in mano. Io so che queste cose lui non le dirà mai, però per me è importante dirle, perché si vive in quel momento una situazione, ci si commuove di fronte a tanta volontà di crescere insieme. E in questo dico anche e ringrazio i nostri ragazzi, i nostri partner sul territorio, Area 51, perché, ripeto, mantenere l'entusiasmo da qui è più facile. Ah, certo. Mantenerlo certo. Da lì è meno, e stanno tutti tenendo fortissimo. Io di questi li voglio veramente ringraziarli in diretta, perché è fondamentale per noi. Oggi stiamo parlando di buone notizie, di questi mondiali di surf che ci saranno dal 10 al 20 di novembre, questo Beer Pro 2011 che ci sarà alla faccia delle difficoltà, di queste terribili difficoltà in cui dalle quali la Liguria si sta tirando fuori. Sempre qui con me Riccardo Belli, Federico De Luna, direttore generale di Beer, al telefono con noi il sindaco di Levanto Maurizio Moggia, a cui io voglio chiedere, prima di salutarlo, quali problemi ci sono. Sindaco, mi dica la verità, abbiamo ancora dei problemi da risolvere sulla via che ci porta all'apertura dei mondiali? Ma per quanto riguarda i mondiali non abbiamo problemi, salvo che dobbiamo attendere Londra, ma noi abbiamo pazienza, siamo sicuri che questo arriverà. Sa. Dal punto di vista invece del paese di Levanto, del comune di Levanto, dei comuni limitrofi, Monterosso, Vernazza e quant'altro, stiamo cercando di uscire fuori, stiamo cercando di ritornare alla normalità. Diciamo che Levanto rispetto agli altri due comuni è stato più fortunato, ha danni ingenti, ma sono danni alle strade, alle montagne, alle frane, ma sono cose che basta avere voglia, volontà, si può recuperare. Diciamo che per il resto il paese, chi viene a Levanto nel centro vedrà un paese normale, dove girano nonostante tutto turisti, soprattutto stranieri, quindi ritengo che lo spirito un po' strano dei levantesi, molto chiuso, così ostico, invece poi lo spirito di quelli che hanno voglia di ricominciare. Noi dobbiamo ritornare alla normalità anche per dare un messaggio di tranquillità a tutti, certo. Non si può vivere tutti i giorni di paura. Bravissimo. La paura va affrontata, certo. Bravissimo. Con mezzi diversi, io dico. Bravissimo. E dovremmo tutti pensare che è cambiato, prendere atto che è cambiato il mondo, diciamo, dal punto di vista meteorologico, e abituarsi, adeguarsi a queste cose. Certo. Grazie signor sindaco, la ringrazio, buon lavoro. Grazie a tutti voi, arrivederci. Grazie a Maurizio Moggia. Tanti messaggi, tra cui questo di Giulio da Venezia: io ci sarò a Levanto per solidarietà e passione, anche se ho una caviglia ingessata. Grazie, bravo. 349-238-6666. Anzi, in questi giorni, se volete mandare messaggi, poi li porteremo in qualche modo a Levanto come testimonianza. Magari facciamo un bel muro di messaggi. Bello, bella idea, assolutamente. Federico De Lunas, che cosa chiedete a questi giorni pieni di avvenimenti? Ci saranno una quantità spaventosa di eventi, certo. Di sorprese, cioè sarà qualcosa di estremamente vivo, questi 10 giorni in cui la gara verrà prima o poi chiamata. Stiamo aspettando l'onda. I surfisti saranno lì con il famoso semaforo verde, saranno lì con i loro colori, con le loro tavole, con la loro attesa, con la loro concentrazione, in un villaggio che sarà un villaggio dall'altra parte del mondo, un villaggio californiano, hawaiano. Sì, ripeto, abbiamo voluto mantenerlo più sobrio rispetto a quelli che erano i programmi iniziali, proprio per rispetto, perché certo. Vogliamo far capire di essere nelle corde di una situazione di questo tipo e non sovrapporsi in maniera importante. Assolutamente. Potrebbe diventare anche potrebbe essere vista in maniera sbagliata, questo è da dire. Ma per rispondere alla tua domanda, Carlo, noi abbiamo grandi aspettative, anche perché l'organizzazione di questo mondiale è stata lunga e per Bear questo è l'avvenimento più importante dell'anno dal punto di vista proprio delle attività legate alla marca, quindi certamente la cosa che mi aspetto io personalmente, noi come azienda, è di riuscire il più possibile a trasferire la passione che noi abbiamo per questo sport, che tutti noi abbiamo per questo sport. È un evento assolutamente nuovo per l'Italia, soprattutto un evento di queste dimensioni, e quindi personalmente spero che sia il primo, anche per me come Bear, il primo di una lunga serie. Quindi sicuramente grandi attese e niente, veramente siamo veramente in... molto molto contenti di questa cosa, anche se ripeto il momento ovviamente non è straordinario per fare questo tipo di evento, però siamo certi che la passione che noi abbiamo riusciremo a trasferire. Poi il nostro Federico è timido, ma lo dico io, perché aiuterà fattivamente come il presente sponsor Jeep del gruppo Fiat il comune di Levanto durante un'asta che ci sarà sabato sera. Questo lo dico perché è importante pensare che gli sponsor non si siano ritirati in un momento del genere, perché anche questo era prevedibile. E invece ci siamo stretti tutti ancora di più insieme e si rilancia con degli aiuti fattivi al comune di Levanto. Anche questo è importante per far capire lo spirito che dal longboard è strettamente collegato poi all'attività, perché ormai stiamo parlando di 8 mesi. Certo, si parla di questo evento e oggi siamo vicini, e questo spirito in un momento di difficoltà ha fatto vedere che poi alla fine tutte queste persone che lavorano intorno a questa organizzazione sono unite davvero. Sì, questo è molto interessante, sono solo il portavoce di tutti gli altri sponsor che conosco bene, con cui stiamo lavorando da tempo per rendere questo evento straordinario, e devo dire in maniera molto spontanea tutti ci siamo sentiti in dovere di veramente di partecipare anche noi fattivamente, quindi al di là di portare questo evento in Italia e di far sì che venga un evento veramente meraviglioso, in questo momento c'è poi bisogno di un aiuto concreto, certo. E sicuramente è quello che faremo. Certo, io poi tra poco vi darò i contatti attraverso i quali sono due diversi, uno è quello della regione raccolta fondi alluvione della regione Liguria, per la Spezia e l'altro proprio per Levanto, e sono due contatti importanti che poi compariranno anche sulla nostra pagina Facebook. Al programma del sabato non può mancare Andrea Zorzi. Ciao Andrea. Ciao, ben ritrovati. Dove sei? Ma oggi sono a Milano di passaggio. Sei a Milano di passaggio. Di corsa, sì. Siamo tutti stamattina a Vigorelli perché abbiamo deciso che Vigorelli rappresentasse la storia degli impianti sportivi più interessanti nella Lombardia. Abbiamo fatto con Zanazzi, un 84enne ex ciclista Pistard che ci ha dato delle storie bellissime. Abbiamo fatto anche il gregario di Coppi di Bartali, ma stamattina, in una giornata piuttosto uggiosa, molto autunnale, siamo andati in questo posto che fa venire un po' di rammarico, perché la pista è ancora bellissima, in legno, un po' rovinata, però non viene utilizzata. Poi c'è questo contrasto fortissimo, nulla da dire contro il football americano, ma era un impianto che in qualche modo ricorda immagini in bianco e nero, che in realtà è utilizzato quasi esclusivamente dal football americano. Storia molto italiana questa, molto italiana. Andrea, cosa ne pensi di quello di cui stiamo parlando? Cioè, c'è un mondiale, una cosa importante in una regione ferita, e c'è la volontà di disputare questo mondiale in una regione ferita, mi sembra un segno importante. Dunque, sì, io credo che la vera grande domanda sia: qual è la ragione per cui si continua ad andare avanti nell'organizzare una mondiale? Se l'obiettivo principale è che attraverso questo evento, tra l'altro così importante, si può dare un segnale positivo per ricominciare, tutta la vita bisogna andare avanti. Abbiamo già però accennato una volta, io e te parlandone, che l'idea del the show must go on, quando questo dipende da questioni principalmente economiche, non mi trovo per nulla d'accordo. In alcuni momenti bisogna fermarsi tutti di fronte ad alcuni momenti drammatici. C'è poi la possibilità, e questo è sicuramente uno di quei casi, in cui effettivamente ripartire può diventare una grande opportunità. È una domanda però che dobbiamo porci e sapere che non c'è una risposta univoca, sicura, esatto. Certo. Quando torni qui? Ricordamelo. Ma io sono via ancora un po' di tempo. Ma piantala lì di andare in giro, ti aspetto, dai. Ieri siamo stati a Verona, poligono di tiro, con Roberto Di Donna, campione olimpico. È arrivato lì, sono due anni che non tiro. Ha fatto 7 tiri, il peggiore era 9. Ma da paura. La classe non è acqua. Classe non è acqua. Andrea, ti aspetto, mi raccomando, raccogli tutto, che poi facciamo un bel libro sonoro di questo tuo viaggio. Uno speciale. Anche di più. State bene, in bocca al lupo. Ciao Andrea, grazie ad Andrea Zorzi. Ragazzi, noi ci troviamo a Levanto tutti quanti, anche questa signora. Sono una fanatica del surf, ho più di 60 anni e ne ho fatto tanto da giovane. Sono entusiasta della decisione di andare avanti malgrado tutto, che è nello spirito di questo meraviglioso sport. Grazie a Riccardo Belli dell'agenzia Racer, grazie a Federico De Lunas, direttore generale di Beer. Tutti a Levanto dal 10 al 20 di novembre. Giorgio Lunghi in redazione, Valeria Bernardi in regia con lo sport. Ci sentiamo domani pomeriggio dalle 4:30 alle 7, non mancate.